Eccolo qua, buongiorno Nicoletti. Vediamo se riusciamo a elaborare un pochino più il pensiero, sennò sembra troppo semplice. Certo, ma io Mauro Marino lo conosco bene perché è un mio fornitore. Ah, perfetto, benissimo. Abbiamo una testimonianza. Certo, un bar ristorante di cui la ditta Marino e Mauro in particolare veniva a farmi le consegne fino a prima che andasse là il Grande Fratello. Lei è un produttore di salumi. Lei è un conosce direttamente il personaggio di cui stiamo parlando. Lo conosco bene, è venuto anche a casa mia, insomma siamo amici e conoscenti, è pure un mio fornitore, quindi un ragazzo che quando lo vedevo in televisione dicevo è proprio lui, nel senso è l'antitesi di tutto quello che vediamo costruito in televisione. Lui ha saputo prendere diciamo l'attenzione di tutti, perché di solito in televisione, come anche purtroppo nella vita, quello che è strambo prende sempre l'attenzione di tutti, dopo magari sotto sotto non vale niente o non sa niente, non sa far niente. Però quindi la televisione spaccia per vera una realtà che in realtà non corrisponde al pubblico che poi la guarda. La vita, lo sappiamo tutti, è diversa, ma molto diversa da quella televisione. Mauro è andato lì e lui è così com'è, come l'abbiamo visto, perché quando lo vedevo lì, quando veniva da me in bar, veniva, è uguale, cioè, lui si muove così, pensa così, parla così, è uno di noi, uno di tutti, diciamo. Lucio, io la ringrazio molto del consiglio che mi ha dato, a parte la sua testimonianza personale. Grazie, buon lavoro.